Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di lavoro dopo il dato della settimana scorsa sull'occupazione e la disoccupazione. Perché? Perché oggi ci sono le statistiche anche a livello europeo e Bruxelles ci fa sapere che in Italia il livello di occupazione, quindi non chi cerca un lavoro ma non lo sta trovando, questi sono i disoccupati, ma quelli che lavorano, tra tutti quelli che ne avrebbero la potenzialità e le possibilità, dicevo, il livello di occupazione è tra i 20 e i 64 anni, è tornato ai livelli del 2002, quindi ci siamo mangiati 6 anni in realtà di crescita dei livelli occupazionali. L'Italia è il peggior paese dopo la Grecia e l'Europa in generale cede 0,1 punti, ma l'Italia ne perde 1,2 di punti sull'occupazione, scende sotto il 60%. Di questo ha parlato il ministro al lavoro Poletti oggi al Sole 24 Ore per il convegno, l'appuntamento Tutto Lavoro. Ha parlato anche Renzi di occupazione, dicendo che insomma, il 2013 è stato il punto più basso sia dell'occupazione che del ciclo economico, ma ci sono segnali di ripresa. Noi, al di là dei segnali o meno, andremo ad analizzare oggi da un lato il pasticcio della TASI, ossia che cosa e se dovremo pagare il 16 giugno la prima rata della nuova tassa sui servizi, perché lo scorso fine settimana, anzi giovedì, tra giovedì e venerdì per essere più precisi, è tornata in luce la possibilità di un rinvio per la prima rata. Oggi, prima riunione tecnica tra l'ANCI e il Ministero dell'Economia, però fino adesso su 4.000 comuni che andranno alle urne, contemporaneamente con le elezioni europee, in questi 4.000 comuni saranno i nuovi sindaci a dover decidere cosa fare della TASI, e questa è una prima impasse. Un'altra è rappresentata dal fatto che adesso, ad ora, hanno deciso solo 1.000 comuni. C'è l'ipotesi di pagare il 16 luglio, oppure, cioè quindi dal 16 giugno al 16 luglio, oppure di rinviare tu cura al 16 settembre, lasciando invariata poi l'altra rata. I comuni, in base alla normativa, devono decidere però le aliquote entro il 23 maggio, anche perché senza alcuna decisione i proprietari della prima casa potrebbero rinviare il pagamento in un'unica soluzione a dicembre, mentre per le seconde case sarebbe un vero e proprio pasticcio. Comunque affronteremo il tema, anzi più che 1.000 per la precisione sono solo 832 i comuni su 8.000 comuni ad aver deciso le aliquote sulla TASI. Faccio notare che è vero che 4.000 comuni vanno a elezioni, ma altri 4.000, o per meglio dire 3.200, non hanno alcuna scusa se non la loro inefficienza. Ancora, andando avanti sui temi che tratteremo, oggi la borsa è particolarmente debole, ma attenzione, perché staccano le cedole, cioè i dividendi, sostanzialmente una marea di società, penso sostanzialmente Atlantia, Azimut, Buzzi Unicem, Campari, Eni, Enel Green Power, Generali, G-Tech, Intesa, Luxottica, Mediolanum, Ferragamo, Saipem, Ubibanca, Tods, Tenaris, Unicredit, Snam e Unipolsai, solo per citare le principali. Quando c'è uno stacco di cedola c'è un impatto sull'indice che è calcolato pari all'1,46%, quindi se andiamo a vedere il fatto che Milano perda l'1,33% al netto dello stacco cedole, sarebbe come dire che Milano guadagna 1,01%. Lo dico perché sennò non si capisce come mai Milano faccia meno 1,34 oggi, con Parigi più 0,40, Francoforte più 0,50, Londra meno 0,30 e l'America più 0,20. Considerando tutta la borsa, oggi l'ammontare delle cedole, cioè dei dividendi che vengono distribuiti agli azionisti, è pari a 7 miliardi di euro. E quindi attenzione poi alla valutazione dei singoli titoli. Per esempio Eni in questo momento perde il 2,60%, Faccio presente che per esempio Generali perde il 3,70, Gitec il 3,30, Iux il 3,30, Snam il 3,20, Unicredit il 3,1, Mediolanum il 2,5, Enel Green Power meno 2,40, Intesa meno 2, Ubibanca meno 1,5, come Campari e Luxottica. La maggior parte delle società che ho citato sono appunto staccano la cedola. In positivo ST Microelectronics più 2,60, A2A più 2,40 e World Duty Free più 2,20, Fiat più 1,80 come Finmeccanica e Autogrill, l'1,60 lo guadagna Tods e la Pop Milano, Pirelli più 1,20, Saipem più 0,80. Certo, la domanda che pongono alcuni di voi, ma in quelle che salgono c'è un... va considerato anche lì lo stacco cedola? Certo, per cui su Tods potremmo dire che sarebbe ancora più alto il rialzo se non vi fosse lo stacco della cedola, ma vale anche per Tenaris e vale anche per Azimut. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Mi scrive un ascoltatore, Saipem non stacca cedola, infatti non mi sembra di averlo mai detto, Saipem non è tra quelle che staccano cedola, ho detto Tods stacca la cedola ed è all'1,45%, Tenaris la stacca ed è più 0,50%, Azimut anche più 0,40%, ma poi con calma durante la borsa daremo anche tutte, Ferragamo confermo invece a chi me lo chiede che sta staccando la cedola del dividendo, quindi diciamo va vista in maniera con le pinze, va preso il suo calo. Andiamo avanti invece per quello che riguarda le altre notizie, oltre che di borsa e di chiaramente mercato del lavoro, ci occuperemo della promozione del Made in Italy, ma soprattutto della nuova frontiera, più volte l'abbiamo ricordata, la nuova frontiera si chiama Africa, è una frontiera già molto conosciuta dai cinesi e anche da altre potenze, è partita oggi la 34esima missione fatta da governo, banche e imprese in Mozambico. Il Mozambico è un paese ad altissime potenzialità dove l'Italia per fortuna è già presente con grandissimi gruppi delle costruzioni, la cooperativa di Ravenna se non ricordo male, però insomma sono quasi 100 aziende, 4 grandissime banche e 6 associazioni di imprenditori in questo momento in Mozambico. Ci collegheremo per la prima missione in un paese dell'Africa subsahariana che da tutti, lo ripeto, viene vista come la nuova frontiera della crescita economica, immaginando che ormai Cina, India, Indonesia, Brasile siano non più una frontiera ma una realtà quanto a crescita economica. E poi parleremo anche del turismo, di una rivolta un po' digitale nei confronti di Expedia, che fa un po' il paio con quanto sta avvenendo a Milano con l'agitazione dei tassisti contro la concorrenza, la loro definita sleale di Uber. Allora, nel merito non entro, non sono temi miei, resto sempre molto freddo quando vedo qualcuno che si lamenta contro quella che è una applicazione. Uber permette di avere un taxi scaricando l'app sul telefonino e di farsi arrivare non è un taxi, se non mi ammazzano i tassisti, è una macchina privata, un servizio con conducente, e sono furibondi i tassisti milanesi. Allora capisco, andremo a vedere poi il caso, ne parleremo, però quando vedo un irrigidimento rispetto a così la possibilità che offre la tecnologia resto sempre un po' freddo. Poi è giusto che però una categoria non venga attaccata in maniera selvaggia. Vorrei capire esattamente i termini, visto che poi con i tassisti ci parliamo molto perché molti taxi prendiamo, così come per quella che è la rivolta degli albergatori nei confronti di alcuni siti, Expedia su tutti ma ce ne sono altri, poi ne parleremo. Invece per quello che riguarda il numero per i vostri sms resta 349-238-6666, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente per quello che riguarda le altre notizie in breve sul fronte internazionale, già sapete che in Svizzera con una maggioranza ancora più schiacciante di quanto non ci si attendesse, non è passato il referendum per il salario minimo che avrebbe portato la Svizzera a essere il paese con il salario minimo più alto al mondo, 3.200 euro, il 76,3% ha votato no, non è passato, comunque la maggioranza non si è ottenuta in alcun cantone svizzero. In Canton Ticino i voti contrari sono stati il 68%. La Germania prevede una crescita più contenuta dopo lo slancio del primo trimestre, slancio quasi solo tedesco, devo dire, una crescita più contenuta nel secondo trimestre. Invece, per quello che riguarda la Grecia, anche oggi abbiamo notizia che anche la suggestiva isola greca di Elafonissos, sarebbe Cervi in italiano, è a 300 metri dalla costa meridionale del Peloponneso, sarà messa in vendita. Ondata di proteste in Grecia perché l'isola è nella lista delle località che saranno privatizzate dall'ente ellenico per la valorizzazione della proprietà dello Stato. Vogliono vendere 175 ettari delle due spiagge mozzafiato, così recita il comunicato di Sarachinko e Simos. Però protestano i residenti e varie organizzazioni ambientaliste, sostenendo che l'area è sotto la protezione del programma europeo Natura 2000. Nuovo rifiuto invece nella battaglia per creare il colosso farmaceutico mondiale, perché Pfizer, che vuole comprarsi AstraZeneca, quindi stiamo parlando di due colossi, dicevo, Pfizer ha offerto questa volta 117 miliardi, ma si è vista opporre un nuovo no. Perché? Perché è troppo bassa e non corrisponde al valore del gruppo, e quindi i britannici hanno detto no. Volete sapere dello spread? Beh, lo spread italiano non è messo, cioè, ripeto, siamo sempre sotto i 200 punti, però, da quando è uscito il dato sul PIL ha compiuto uno scalino, viaggiava sotto i 150 punti, adesso siamo tornati a 185 punti, i rendimenti del BTP a 10 anni sono di nuovo sopra il 3%, al 3,16%. Perché lo stacco cedola fa scendere le quotazioni? Perché, detto in maniera un po' brutale, perché il prezzo del titolo si muove verso il livello che avrà incamerando lo stacco del dividendo. Voglio dire, se tu hai un titolo che vale 2 euro ma poi distribuirà il giorno X 1 euro, è chiaro che il titolo va, è come se avessi un titolo che vale 3 euro, diciamo, se fosse 1 euro per azione. È chiaro che il titolo va a muoversi verso quel livello e per poi perderlo come viene staccata la cedola, altrimenti sarebbe troppo facile, uno comprerebbe il titolo il giorno prima dello stacco cedola, si beccherebbe l'euro e poi lo va a vendere il giorno dopo. Non funziona così, sarebbe la borsa di Bambi, e invece funziona in maniera un po' diversa, che il titolo si muove fino a incorporare lo stacco della cedola, quando la cedola stacca perde la parte che viene distribuita come dividendo e quindi come utili per gli azionisti. Il lavoro che non c'è. Allora, dichiarazione oggi del Premier Matteo Renzi, 2013 il punto più basso, ma segnali di ripresa. Io inizio a vedere finalmente i segni di una ripresa, e inizio a vedere i segni di una ripresa non soltanto per gli accordi che stiamo firmando in queste ore, per il fatto che grazie al decreto legge Poletti Electrolux è ancora in Italia, per il fatto che Ansaldo Energia ha firmato l'accordo con Shanghai Electric, per il fatto che Fincantieri annuncerà in questa settimana un ulteriore importante segnale di novità, per quello che accadrà domani pomeriggio a Bari sul farmaceutico, per quello che annunceremo in settimana per la Sardegna. Ci sono insomma tanti interventi che sono pronti. Ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli italiani, che secondo me sono la maggioranza, di dire che noi non cediamo alla facile demagogia di chi dice fuori da tutto. Vogliamo stare dentro, e stando dentro vogliamo cambiare le cose in Europa. Sono convinto che ce la facciamo. Allora, Sì, io modestamente inviterei il Premier Renzi a un po' di cautela per non creare un distacco con il resto del paese. È vero che la parte peggiore della crisi dovrebbe essere alle spalle, però con quello che è successo la settimana scorsa, un'Italia che entra nel 2014 frenando come economia, con una crescita acquisita dell'almeno 0,2%, dire troppo insistentemente, secondo me, che ci sono i segnali di ripresa, che il punto più basso è toccato, vedo i segni di ripresa, è ovvio che anche noi vediamo un leggerissimo miglioramento della situazione, però attenzione a non essere fraintesi. Comunque, oggi il ministro Poletti, a margine del convegno qui al Sole 24 Ore Milano Tutto Lavoro, organizzato dal Sole 24 Ore, sulla legge, intanto le leggi delega sul lavoro e poi comunque sull'impianto della riforma del lavoro che è diventata legge, al microfono della nostra Anna Marino. Diamo una risposta di semplicità e tranquillità, diciamo, in termini di certezza del diritto per chi fa delle assunzioni. Con i contratti a termine, nella nuova formulazione, uno può utilizzare questi contratti senza avere il dubbio di avere un problema di interpretazione della norma. Abbiamo semplificato i contratti di apprendistato, quindi pensiamo che questo sia un modo per aiutare. Certamente non si fanno con le norme posti di lavoro, ma i posti di lavoro non possono essere aiutati da una buona normativa, quindi noi pensiamo che questa sia una buona normativa. Non facciamo le cose contro qualcuno o per qualcuno in termini di giudizi, noi guarderemo i numeri, l'abbiamo scritto nella norma, tra 12 mesi verificheremo gli esiti e se gli esiti saranno positivi insisteremo, se gli esiti dovessero dimostrare che non abbiamo infilato la strada giusta la cambieremo. E poi i contratti di apprendistato. Secondo l'impianto della nuova legge dovrebbe essere più applicabile di prima, anche perché questo è un paese che piaccia o non piaccia l'apprendistato, c'è una resistenza culturale a fare l'apprendistato nelle scuole dopo i 15 anni, perché si dice a quel punto i ragazzi non studiano più. Adesso nessuno vuole che i ragazzi non studino più, faccio solo notare che al di là delle polemiche più o meno ideologiche, noi abbiamo 2.200.000 NEET, cioè ragazzi che non studiano e non lavorano e non si formano. Ora, quelli non è che li ha creati la legge con l'apprendistato, quindi forse se si trovassero dei meccanismi per evitare il cosiddetto mismatching, cioè il fatto che c'è una domanda di lavoro non altissima, ma c'è, ma che non incrocia l'offerta, magari anche dando la possibilità a un ragazzo di capire cosa vuole fare da grande iniziando a frequentare il mondo del lavoro, io non ci vedo niente di male. Cioè, non mi sembra che il problema in questo momento sia sostanzialmente l'apprendistato, il problema sono i 2.200.000 ragazzi che non fanno nulla, che non sono né al lavoro né allo studio né in formazione, che sono a casa a guardare la televisione, se va bene. E comunque le regioni italiane sono in ritardo per dare poi le linee guida sull'apprendistato, creando numerosi problemi anche all'applicazione della legge, lo ha ricordato lo stesso ministro Poletti. Queste diventano discussioni sul passato, perché oggi la norma c'è, quindi oggi bisogna guardare avanti, bisogna guardare a come la norma produrrà degli effetti sul sistema delle imprese e degli effetti sulle possibilità di lavoro, e dall'altro lato il tema che abbiamo di fronte è di cominciare a lavorare rapidissimamente sulla delega, perché oggi la delega è già presentata e depositata al Senato, ha già avviato il suo percorso, sono già state convocate delle audizioni, quindi noi pensiamo che il tema della delega non sia, come dice qualcuno, a futura memoria, è un tema che arriverà rapidamente alla sua conclusione e noi dobbiamo essere pronti a fare i decreti, perché ci siamo presi solo 6 mesi per fare un lavoro che di solito occupa molti anni di lavoro. Il contratto a tutele progressive trova resistenza? Ma non direi che trovi resistenza, il problema vero è che noi dobbiamo fare un'operazione di semplificazione drastica sui sistemi della contrattazione e della pluralità dei contratti, che sono troppi, che vanno semplificati, però semplificarli non è semplice, perché quando questi contratti sono stati costituiti corrispondevano ad un bisogno, magari particolare, magari parziale, ma c'era qualcuno che pensava fossero utili, quindi smontare qualcosa che è stato costruito e sulla base del quale oggi ci sono imprese e lavoratori che vengono chiamati a lavorare non sarà una cosa banale. Quindi, le parti sociali? E le parti sociali avranno il loro ruolo, possono dire la loro opinione, fare le loro proposte, discutere e poi noi ci prenderemo la responsabilità di fare delle proposte e far decidere il Parlamento. Vedo molti messaggi da... contro i tassisti e dei tassisti. Poi parleremo della vicenda Uber, che è presente sia a Milano che a Roma, l'app che permette appunto di scaricare gratis, è un colosso mondiale Uber, non è che sia presente solo in Italia, che va a sommarsi alle cosiddette car to go, insomma le macchine da prendere a noleggio e lasciare dove poi si arriva, un servizio che, pensate, solo a Roma sta crescendo di 700 nuovi iscritti al giorno. Allora, nessuno vuole massacrare nessuna categoria, adesso vedremo di capire. Mi sembra un po' così una battaglia di retroguardia andare a chiedere che venga chiusa un'applicazione che è presente in tutto il mondo. Faccio notare per esperienza diretta, non tanto a Milano ma in altre città, vogliamo dire Roma, diciamo Roma, il numero di taxi che hanno carta di credito. Voi direte, chi se ne frega? Beh, mica tanto, perché quando uno arriva in un aeroporto, in una stazione, spesso può non avere i contanti, e le macchine della Uber si pagano tutte con carta di credito, con Bancomat. Ecco, il numero di taxi sprovvisti di carta di credito è indecente, non è un problema a dirlo. Cioè, tu fai la fila all'aeroporto a Roma, a Termini, dove cavolo arrivi, chiedi quanti sono quelli che hanno, perché magari non hai i contanti giusti, di solito ce ne vogliono un po', nessuno, o quasi nessuno. Per cui aspetti un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, nessuno vuole massacrare la categoria, ma la categoria si adegui, ok? Perché sennò poi sospetto che tu non vuoi la carta di credito, perché la carta di credito ha tanti difetti, tra cui essere rintracciabile. È un sospetto malizioso che infatti non voglio confermare. Andiamo avanti, su Alitalia, Poletti, valuteremo i dettagli del piano proposto da Etihad. Se gli esuberi, come è probabile, non dovessero essere ok con le norme, valuteremo le soluzioni. Siccome il tema non è ancora stato affrontato al Ministero del Lavoro, quando lo sarà affrontato io sarò in grado di dirvi che cosa siamo in grado di fare. Le leggi sono note, gli strumenti sono noti, vedremo se ciò che viene previsto da questi piani e ciò che le norme oggi consentono sono compatibili e coerenti, o se dovremmo pensare a qualcosa di diverso, ma oggi non è possibile dirlo. Ma in questi giorni naturalmente dovremmo valutare queste cose. Vabbè, il nostro sogno di oggi è facile, insomma, sapere cosa dovremmo fare il prossimo 16 giugno. Uno dice, ma che te ne frega? No, perché il prossimo 16 giugno, teoricamente, dovremmo pagare la prima rata della nuova tassa sui servizi, quella che abbiamo battezzato Paga e Tasi, si chiama Tasi. Il problema è che ha iniziato già la settimana scorsa il sottosegretario Zanetti. Possiamo risentire il Zanetti effetto giorno da Simone Spezia di venerdì scorso? Ha detto, dai comuni c'è un no al rinvio, temo il caos per i cittadini, però insomma non abbiamo ancora escluso il rinvio, e già si era capito che stava succedendo un caos sulla Tasi. Perché di mezzo la Tasi senza i sindaci non può essere applicata, nel senso che poi allora lì abbiamo 8.000 comuni, di cui 4.000 vanno elezioni, lì è forse più comprensibile, però gli altri 4.000 non si capisce perché solo 882 abbiano già deciso l'aliquota della Tasi. Però sentiamo Zanetti, per chi non lo sapesse è sottosegretario dell'economia, già avanzare, mette le mani avanti, diciamo così, venerdì a effetto giorno. Preso atto che i sindaci non vogliono il rinvio, in questo momento, come dire, il Ministero rispettosamente si ferma. L'importante è che sia chiaro che sono i comuni a non volere questo slittamento. Io ho timore, francamente, che il 16 di giugno si verificherà più di qualche problema, non ai comuni, ma ai cittadini, nel senso che i comuni non vogliono lo slittamento, ma non mi sembrano così celeri e rapidi nel fare le relative delibere. Loro hanno tutto il diritto di non vedersi spostare date di incasso, che essendo somme che devono andare a loro, è giusto che loro gestiscano, però dovrebbero anche pensare che i cittadini sarebbero molto aiutati se fossero abbastanza più veloci nel deliberare, e quindi nel fissare aliquote ritenute e nel consentire quindi dei conteggi più sereni. Quindi lei dice in sostanza, bene, conserviamo il 16 giugno perché i sindaci lo chiedono, ma cari sindaci sappiate che ci saranno parecchi problemi. No, io temo, francamente, siccome un po' conosco, sono anni che mi occupo di scadenze dinamiche fiscali, io temo purtroppo che se avremo, come è in questo momento, soltanto il 10%, poco più, dei comuni che ha deliberato tempestivamente, ci troveremo il 16 giugno in una situazione discretamente caotica, non per i comuni, ma per i cittadini. Ora, ripeto, io ho la massima stima e considerazione dei sindaci e dell'ANCI, e ci mancherebbe, però credo che, insomma, benissimo il partito dei sindaci, io preferisco iscrivermi al partito dei cittadini. No, questa è bellissima però, eh? No, perché insomma non è difficile da capire. Il sottosegretario dice: vabbè, se i sindaci vogliono che la data sia il 16 perché hanno bisogno anche di fare cassa, va bene. Però temo che non saranno pronti a dirci quale sarà l'aliquota che i cittadini devono pagare il 16. E temo ci possa essere un po' di confusione. No, non ci sarà confusione, scusatemi il termine, ci sarà un casino totale, perché qua siamo a 880 comuni. Mancano sostanzialmente meno di un mese. Allora, o in un mese fanno, o se no io vado nel comune X e non so quello che devo pagare come aliquota. Questa è una roba fuori dagli grazie di Dio. Comunque, rinvio o no? Ne parla Guido Castelli, sindaco di Ascoli, che è anche responsabile della finanza locale dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Bisogna chiedere a qualche indovino che con la sfera di cristallo può dirci qualcosa, e mi rendo conto che, insomma, il contribuente non ha di che rallegrarsi, è l'ennesimo pasticcio all'italiana. Il problema è che, parlo direttamente come delegato alla finanza locale dell'ANCI, che innanzitutto ci sono 4.100 comuni che andranno al voto unitamente al voto europeo. Questi comuni si sono trovati nella condizione oggettiva di non poter deliberare le aliquote entro il termine del 23 maggio, quindi è in questo caso sicuramente un pasticcio, perché nessuno legittimamente poteva pensare che questi comuni, compreso il mio fra l'altro, ma lo dico incidentalmente, potessero adempiere a quella che era la indicazione della legge. C'è anche un altro discorso da fare molto importante, che io confido che fra i 4.000 comuni, gli altri, l'altro 50%, che invece non andrà al voto, la prossima settimana si possano chiaramente enumerare tanti altri comuni. Ma perché non hanno deliberato, Castelli? I 4.000 che non vanno al voto, immagino che delibereranno, perché devono deliberare, non possono non deliberare. Quelli invece che andranno al voto non potevano, perché il 10 aprile è il termine ultimo per lo scioglimento dei consigli, quindi anche volendo non avremmo potuto farlo, anche perché consideri che gli ultimi dettagli della TASI sono stati partoriti, fra virgolette, solo il 20 aprile, e quindi prima del 10, anche volendo, non si sapeva esattamente quale fosse il quadro. Ma un rinvio di un mese che problema vi crea? Credo che innanzitutto il rinvio sia necessario per tutti quei comuni che vanno al voto. Il rinvio per gli altri ha solo un effetto che sicuramente noi riteniamo pregiudizievole, il fatto che i comuni, per effetto del nuovo regime fiscale, che è appunto il regime della TASI e della IUC, non hanno più trasferimenti dallo Stato, e quindi per sostenere le proprie spese obbligatorie hanno bisogno di risorse. Allora, mi sembra una gran confusione. Ne parliamo con chi sta seguendo questa gran confusione per il Sole 24 Ore. Cristiano Dell'Oste, buonasera innanzitutto. Buonasera. Un attimo di pazienza, ho il meteo e la pubblicità. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Cristiano Dell'Oste, dici che cosa sta capitando, perché insomma il sottosegretario, né il sottosegretario Zanetti né il responsabile finanza dell'ANCI dei comuni italiani Castelli ci hanno chiarito le idee. Beh, sta capitando che questa mattina c'è stato un incontro tecnico tra i funzionari del Ministero dell'Economia e i funzionari dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, per capire come sciogliere questo maledetto imbroglio della TASI, che non si capisce se dovrà essere pagata da tutti il 16 giugno, se dovrà essere pagata in parte il 16 giugno, in parte a settembre o a luglio, secondo altre ipotesi, oppure da tutti a dicembre, perché c'è anche questa ipotesi di slittamento generalizzato. Il punto è che i tecnici stanno cercando cercando di mettere sul tappeto varie possibili soluzioni. Poi nei prossimi giorni dovrà essere la politica a decidere, che vuol dire probabilmente il Presidente del Consiglio in prima persona o le persone a lui vicino, nel caso specifico Del Rio, che poi è stato per anni anche segretario al vertice dell'associazione proprio dei comuni e che adesso si trova, per così dire, a vestire la casacca della controparte, perché segue questa partita non più dal punto di vista dei comuni ma dal punto di vista del governo. Certo è un grosso pasticcio perché, come dicevamo prima, praticamente 9 comuni su 10 non hanno ancora deliberato, di sicuro metà non delibereranno, e comunque sia noi non dobbiamo sottovalutare una cosa, che un conto è la delibera, quindi la decisione presa nel Consiglio Comunale, un'altra è la pubblicazione, certo, della delibera sul sito del Ministero, che è un sito anche abbastanza complicato da andare a raggiungere per i contribuenti, e in quel caso lì dobbiamo immaginare cittadini, ma soprattutto anche professionisti, che si mettono a fare la raccolta delle delibere, tutto ovviamente nei primissimi giorni di giugno, perché la data utile per la pubblicazione è il 31 maggio, quindi primi giorni di giugno la grande raccolta delle delibere, poi a cavallo del ponte con il 2 giugno, che magari ruba un paio di giorni lavorativi agli uffici, l'assalto da parte dei contribuenti agli uffici di CAF e commercialisti per mettere a punto quel, di fatto in una decina di giorni scarsa, i modelli di pagamento di questa TASI, ammesso che si riesca a capire qual è l'importo da pagare, perché poi la regola, se volete la diciamo nel dettaglio, ma non è così lineare, perché c'è una differenza tra abitazioni principali e immobili diversi dalla prima casa. Sì, infatti ho visto che poi la confusione più grossa sarebbe soprattutto per i proprietari di seconde case a questo punto, perché su quelle della prima casa invece potrebbero rinviare pagamenti in un'unica soluzione, mentre sulla seconda casa no. Esatto, è proprio così, perché sulla prima casa di fatto la legge ci dice: se il comune non ha deliberato entro il 23 maggio e non ha pubblicato entro il 31 di maggio, si paga al 16 dicembre. Quindi in qualche modo, ammesso che io riesca a trovare facilmente la delibera, il problema è risolto. Il problema è su tutto ciò che non è prima casa, che sì, vuol dire anche immobili delle imprese, negozi, uffici, non soltanto abitazioni. E lì, se il comune non ha deliberato, io dovrei pagare secondo l'aliquota standard, che è quella dell'1 per 1000, quindi dovrei pagare di fatto uno 0,5 per 1000, con diversi problemi. Spesso potrei trovarmi a pagare più del dovuto se poi il comune stesse sotto questa aliquota, perché sui fabbricati diversi dalla prima casa potrebbe anche stare sotto. E poi c'è il problema che negli immobili affittati una parte della TASI, che va dal 10 al 30% a discrezione del comune, è addebitata all'inquilino. E qui la legge non mi dice con quale percentuale io vado a far pagare l'inquilino, considerando che poi, se parliamo del 10%, dell'1 per 1000, sono importi davvero piccoli. Tant'è che i comuni avevano chiesto con un emendamento che fosse il proprietario a riscuoterlo, sì, e poi a farsi dare dall'inquilino, emendamento poi bocciato tra le proteste anche delle sigle della proprietà edilizia. Allora, la domanda, insomma, finale è molto semplice. Visti la ristrettezza dei tempi, visto che 4.000 comuni cambieranno probabilmente l'amministrazione, quindi oltre, diciamo, alla difficoltà di carattere burocratico amministrativo, vi saranno anche quelli di carattere politico, dovrà insediare una nuova giunta, gli assessori, prendere in mano le pratiche e quant'altro. Invece che arrivare come sempre alla fine, non si potrebbe già dire adesso: tanto non ce la facciamo per il 16 giugno? Eh sì, sarebbe una scelta saggia. Consideriamo che l'esperienza dell'IMU degli ultimi 2 anni ci insegna che queste sono anche delibere estremamente impopolari da prendere, su cui i consigli comunali fanno sempre grande resistenza. Io non conosco il vostro paese, ma il sindaco che prende la delibera a una settimana dal voto, lo voglio ancora vedere, poi ci sarà sicuramente, però insomma non è maggioranza. No, ecco, assolutamente. Diciamo che un termine realistico potrebbe essere quello di settembre, forse una cosa ancora più saggia potrebbe essere avere un'unica soluzione, contando che l'anno scorso siamo arrivati con i bilanci preventivi degli enti locali approvati entro il 30 di novembre, quindi preventivo approvato dopo 11 mesi di esercizio, e quest'anno si veleggia già verso luglio e non è detto che non arrivino poi ulteriori proroghe, quindi la saggezza imporrebbe un rinvio, e lo imporrebbe per tutti, proprio per evitare anche ai professionisti di dover fare il censimento delle delibere più volte durante l'anno. Vedremo in settimana su che decisione ci si allineerà, perché poi i comuni hanno detto di fatto che gli mancano 2 miliardi di euro in cassa. Sì, e questo è l'altro problema, perché poi uno può aspettare fino a dicembre, ma poi ci sono i comuni che devono fare cassa, detto in maniera molto brutale. Ti dico una cosa, Cristiano, io non ho capito come se ne uscirà. Magari si prenderà una soluzione così pilatesca 16 luglio o 16 settembre, che potrebbe salvare le casse dei comuni, dare più tempo ai comuni, certo, permettere a noi di capire cosa succede. Probabilmente sarà quella, e comunque anche non generare un carico eccessivo tutto in una rata, perché obiettivamente due rate, lo capisce con bambino, sono meglio di una per molte famiglie che hanno difficoltà e magari sono proprietari di case oppure chiaro, hanno negozi in locazione e quant'altro. Comunque, grazie a Cristiano Dall'Oste del Sole 24 Ore, traffico e poi invece la borsa. Arriviamo, siete assisti che gli albergatori, andiamo con ordine però, perché oggi, ripeto per la terza volta, al netto dello stacco delle cedole, la giornata è stata abbastanza tranquilla in borsa. Milano ha perso l'1,60%, le cedole, se non, quindi i dividendi che vengono, gli utili che vengono distribuiti, sono appunto i dividendi agli azionisti, pesano, se non ricordo male, sull'indice per un 1,46%, quindi se tanto mi dà tanto staremo parlando di un calo reale dello 0,16%, chiedo dello 0,14%, chiedo conferma a Guido Maurino di Radio Coro Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera, sì, confermo che la giornata è quella che hai descritto tu. Certo, in mattinata c'erano state alcune tensioni, complice lo spread che era tornato ad allargarsi oltre i 180 punti base, per cui a metà mattina Milano perdeva oltre 3 punti percentuali, e per cui non pesava solo l'effetto stacco cedola, c'erano delle ragioni sostanziali e le banche stavano perdendo molto. Poi però con l'apertura di Wall Street, che comunque è stata debole ma non particolarmente drammatica, attorno alla parità un po' di meno, anche Milano si è ripresa e ha chiuso appunto al netto dello stacco cedola in linea un po' con le altre borse europee, che hanno chiuso e contrastate, alcune con leggermente sopra la parità e alcune sotto la parità. Sì, contrastate devo dire senza un indirizzo preciso. In questo momento il Dow Jones guadagna lo 0,15, Parigi ha fatto più 0,30 come Francoforte, Londra invece perde lo 0,16%. Allora vi do tutte le società che hanno staccato da cedole, quindi dove il dato è falsato in negativo, cioè sarebbe stato migliore il risultato se non avessero staccato il dividendo: Tod's più 1,65%, Tenaris più 0,45%, il che vuol dire che sarebbero cresciute di più al netto dello stacco della cedola. Tenaris, dicevo, più 0,45, Buzzi Unicem più 0,34, Azimut più 0,20, Atlantia più 0,1. Poi in negativo, ma anche qui sotto lo stacco del dividendo, Generali meno 3,76%, Snam meno 3,30, G-Tech meno 3,12, Eni meno 2,95, Mediolanum meno 2,60, Enel Green Power meno 2,5, Intesa meno 2,30, Unipolsai meno 1,80, Campari meno 1,80, Luxottica meno 1,60 come UbiBanca e Salvatore Ferragamo meno 1,1. Queste le società che hanno staccato la cedola. A2A. Allora sì, per quello che riguarda A2A c'è attesa, perché a breve dovrebbe essere ufficializzata la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Multi Utility di Milano e di Brescia. Se le indiscrezioni della vigilia dovessero essere confermate, e tutto lascia propendere che lo saranno, Valerio Camerano sarà il nuovo amministratore delegato della società. Camerano ha un'esperienza del settore, perché arriva da Gaz de France Suez e andrebbe a guidare la società, che oggi aveva un sistema invece duale, per cui non c'era un amministratore delegato ma c'erano due direttori generali. Insomma, una notizia che oggi è piaciuta al mercato, anche perché il nome di Camerano, che era uscito nei giorni scorsi, rappresenta un po' una mediazione fra i comuni di Milano e di Brescia, che avevano orientamenti diversi su chi dovesse guidare la società. Si ritrova armonia, e per cui oggi il titolo è stato premiato. Allora, premiati anche altri titoli oggi, devo dire di Eni sì, perde un po' più dello stacco, meno 2,95, perché c'è la tensione anche in Libia. Generali perde un po' più dello stacco cedro, anche qui c'è la banca di, l'indiscrezione che la Banca d'Italia starebbe collocando i pacchetti azionari. E invece migliori e peggiori in assoluto ve li do dopo il GR 24. Grazie intanto a Guido Maurino di Radio Colle sulle 24 ore. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso da un lato di quella dell'istruttoria aperta dall'antitrust contro due siti molto celebri per chi vuole cercare un albergo anche in Italia, mi riferisco a Expedia da un lato e Booking.com dall'altro, e poi invece della vicenda di tutt'altro genere che riguarda i tassisti in agitazione per da tre giorni, anzi mercoledì avranno un incontro con il ministro Lupi per la vicenda Milano di Uber, ma non solo. Una precisazione, mi scrive uno ascoltatore, guardi che i titoli che lei ha letto sono al lordo, non al netto dello stacco cedola, così ho detto, se non si è capito lo ribadisco. Questo per quello che riguarda l'andamento della borsa oggi. Ancora tra gli sms che arrivano, vedo molti tassisti che scrivono, voi non vi rendete conto che non siamo un servizio pubblico, facciamo un lavoro pesantissimo in mezzo al traffico. Tutto giusto, non ho detto che siate un servizio pubblico, infatti non siete, diciamo, precettati come fa il servizio pubblico quando fa sciopero, non avete. Mi interessa ragionare sul il perché di questa protesta, perché se solo contro un'app di Uber, fermo restando che tutti devono rispettare la legge, non vorrei che fosse una protesta di retroguardia, però adesso ci arriviamo senza preconcetti. Prima di tutto dicevo la vicenda Expedia e Booking.com. Chi sono i due soggetti? Expedia praticamente è fondata da Microsoft nel 96, è il sito web di viaggi, fattura 4 miliardi di dollari, in Italia è leader di mercato al 35% dei viaggi online. E Booking.com è anche questa una compagnia leader nel mondo nel settore delle prenotazioni online. Pensate che ogni giorno attraverso Booking.com si prenotano 650.000 pernottamenti, visitato ogni giorno da 30 milioni di persone, disponibile in 40 lingue e offre 467.000 strutture alberghiere in 202 paesi. Che cosa è successo? L'antitrust ha aperto un'istruttoria accogliendo le segnalazioni di AICA nei confronti di sia di Expedia che di Booking, AICA è l'associazione italiana Confindustria Alberghi. Perché? Perché si dice sostanzialmente che quello che viene contestato è una clausola, se ho ben capito, ossia il fatto che sia Booking.com che Expedia vincolino le strutture ricettive, cioè gli alberghi, a non offrire i propri servizi alberghieri a prezzi e condizioni migliori tramite altre agenzie di prenotazione online e in generale tramite qualunque altro canale di prenotazione, compresi i siti degli alberghi. Secondo l'antitrust, obbligare gli alberghi a questo vincolo significa limitare la concorrenza sia sulle commissioni richieste che sui prezzi dei servizi alberghieri in danno ai consumatori finali. Giorgio Palmucci è presidente di AICA, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Quindi voi siete soddisfatti che l'antitrust abbia accolto le vostre segnalazioni e aperto un'istruttoria? Mi sembra abbastanza palese. Sì, sì, siamo molto soddisfatti, in quanto noi siamo consapevoli, è evidente che l'importanza di internet in questi ultimi decenni è continuata ad aumentare, quindi anche per il mondo del turismo internet è fondamentale. Noi quello che volevamo nel momento in cui abbiamo presentato l'esposto era quello di evitare che queste online travel agents prendessero comunque un peso eccessivo che limitasse la concorrenza e quindi che limitasse la libertà da parte degli albergatori di proporre i prezzi delle loro strutture e la libertà da parte poi dei consumatori di poter scegliere in maniera più libera. Cioè, voi contestate che cosa? Non penso, per, voglio dire, Expedia e Booking.com fanno, sono molto utili anche a voi, oltre che a noi, cioè anche chi offre una struttura alberghiera, no? Perché insomma permettono tra l'altro di fare prenotazioni online, di avere una gestione anche dei flussi e alcune garanzie, no? Non penso che l'opposizione sia Expedia e Booking.com. Voi non... Prego, prego. Ah, no, nella maniera più assoluta, noi riteniamo anzi sono estremamente utili le agenzie online e la possibilità di poter prenotare dei servizi alberghieri attraverso internet, quindi non siamo per nulla contrari alle agenzie online, alla possibilità quindi alla forza, all'importanza di Booking.com e di Expedia.com. Quello che noi riteniamo è che lei sa che in Italia ci sono circa 34.000 alberghi. 34.000 alberghi, la maggior parte sono alberghi di piccole o medie dimensioni, e per cui non hanno nessuna possibilità di discutere né commissioni né prezzi con questi giganti, i quali quindi rischiano di imporre all'albergo di pagare commissioni troppo elevate, che oltretutto significano poi hanno una ripercussione ovviamente anche per il consumatore. Però mi scusa, ho capito benissimo, però il discrimine mi sembra un po' sottile, nel senso che se io sono un soggetto privato, mi chiamo Expedia, e lei è un albergo, le dico: guardi, se lei vuole essere inserito nella mia lista, diciamo, di prenotazioni possibili, io però ho bisogno che questo preveda un rapporto tra virgolette in esclusiva, cioè non mi deve, il suo albergo non posso trovarmelo anche su altri siti, su altri portali. A me, insomma, è una firma, diciamo, tra due soggetti, uno ci può stare oppure no, perché io come Expedia potrei anche dire, faccio l'avvocato del diavolo, dire: guardi, se non le va bene, inseriremo un altro albergo. Cioè, c'è un vantaggio nell'essere in queste piattaforme mondiali che coprono, ripeto, 40 paesi, è in 40 lingue Booking.com e in 20 lingue Expedia. Per cui ci può essere che uno ti chieda anche, insomma, come avviene anche nei contratti di fidelizzazione, no? Le clausole di non concorrenza. Dov'è che lei pone il discrimine? Perché un soggetto potrebbe anche dire correttamente: guardi, se vuole fare parte del mio book, degli alberghi che offro, però lei non può andarmi col concorrente, poniamo. No, il problema è che giustamente, come lei ha indicato prima nei numeri e nelle cifre, cioè non c'è possibilità di scelta, cioè praticamente se tu albergatore, soprattutto di piccole dimensioni, non accetti di lavorare con Booking, con Expedia, non hai nessuna possibilità di andare da un'altra parte, cioè fondamentalmente rendono impossibile poter presentare il proprio prodotto attraverso altri canali, perché sono ormai in una posizione così elevata da non poterti permettere poi di fare diversamente. Io non capisco, Presidente Palmucci, sì. Voi vorreste la possibilità di andare su Expedia e su Booking.com, perché è ovvio che nessuno è così pazzo dei suoi associati a dire no alle due principali piattaforme mondiali per avere clienti, no? Questo siamo tutti d'accordo. Però non vorreste che loro ponessero un'esclusiva, ho capito bene? No, non è tanto l'esclusiva, è poterne discutere condizioni e non dover essere sottoposti a questa che lei ha indicato prima, questa parity rate, cioè che praticamente l'albergatore nel momento in cui vende attraverso questi portali non può vendere da nessun'altra parte ad un prezzo inferiore, quindi questo limita la possibilità dell'albergo di poter far fronte anche a quelle che sono delle esigenze, come lei può immaginare, cioè anzi come lei ben sa, cioè non è che l'albergo ha un magazzino in cui mettere le camere che non vende per il giorno dopo, a un certo punto nel momento in cui non sono vendute le camere per il giorno successivo, per la settimana successiva, per l'albergo i costi rimangono, non ha nessun'altra, se dovesse non avere la possibilità di applicare anche delle tariffe differenti, non ha nessuna possibilità di vendere, e per cui alla fine quello che noi abbiamo bisogno è semplicemente poter negoziare con un interlocutore che in questo momento dice: vista la mia potenza, se accetti è questo, devi pagare un tasso di commissione elevatissimo e non puoi vendere a un prezzo inferiore in nessun caso. Quindi, se ho ben capito, vorreste arrivare a una situazione per cui io offro le mie camere anche su Expedia e su Booking.com se ho voglia, però poi se poniamo il giorno prima, due giorni prima, io ho ancora molte camere non vendute, posso iniziare a fare delle offerte vantaggiosissime, più basse del prezzo a cui le avete offerto Expedia e booking.com con altri canali, perché comunque devo riempire le camere. È più o meno questo, diciamo, il modello. Più o meno è questo, e in più soprattutto perché ci sono ovviamente la concorrenza di altri alberghi della città, qui bisogna, della città o del, insomma, del luogo di villeggiatura, e quindi bisogna poter reagire rapidamente e non essere sottoposti a dei vincoli quasi di tipo monopolistico. Due domande rapidissime. C'è chi dice, come ascoltatore, per gli albergatori vogliono farsi pubblicità, cioè avere la visibilità su Booking e Expedia, e poi poter fare i prezzi loro, cioè usare il vantaggio di essere visibili però non essere vincolati. Cosa risponde? Ma rispondo semplicemente che un albergo è come una qualsiasi impresa, deve avere la possibilità di vendere attraverso tutti i canali di distribuzione e la possibilità di comunicare attraverso tutti i canali, e quindi uno dei canali che ovviamente è in fase sempre di crescita è ovviamente internet, quindi internet è uno strumento che è essenziale per l'albergatore ma come per tutte le altre imprese. E per chi dice invece, ma perché non vi fate voi il vostro portale? Cioè, voglio dire, alcuni mi stanno scrivendo che in realtà uno potrebbe offrire le camere a prezzi ribassati anche su Expedia, anche se mancano due giorni, diciamo, alla scadenza, per cui quello che ho detto in realtà si potrebbe ovviare. Uno dice, beh, guarda, adesso non offro più a 90 euro, la offro a 70, e lo fai su Expedia, su booking.com, e si mi risponde anche questo. E poi c'è chi dice, attenzione, che perché non fate voi un portale italiano, cioè se volete un'alternativa create anche voi una piattaforma. Allora, guarda, io rispondo. Per quanto riguarda il primo, è ovvio che, ripeto, per noi la libertà, la libera concorrenza ci deve dare la possibilità di cambiare questi prezzi in qualsiasi momento, sia attraverso Expedia, attraverso Booking, sia attraverso gli altri canali di vendita che abbiamo, che possono essere anche il nostro centralino o call center. O la bacheca, casi, diciamo. Ah, solo la bacheca. Per quanto riguarda poi invece il discorso del portale, beh, noi come associazione non posso che dire che negli ultimi governi si è tanto parlato di Portale Italia. Portale Italia, secondo me, è comunque uno strumento importante che dovrebbe esistere e che noi supportiamo nel momento in cui viene fatto, venga realizzato e diventi un portale, non il portale, perché sennò altrimenti ci troveremmo anche in questo caso con una limitazione della concorrenza. Quindi continui Booking, Expedia e quant'altro, ma un Portale Italia non potrebbe che favorire quello che è lo sviluppo del turismo nel nostro paese. E farlo voi in casa, no? A farlo noi in casa, come associazione, mettere d'accordo comunque tutte le imprese, sicuramente noi lavoriamo per facilitare tutto quello che può permettere la nascita di un Portale Italia. Crearlo poi portali tra diverse associazioni, poi ripeto, consideri che il numero enorme di alberghi che esistono in Italia, tutti di piccole dimensioni, anche diventa complicato riuscire a organizzare una... No, lo dico perché è chiaro che quando tu hai 34.000 alberghi di piccole dimensioni sarai sempre nano rispetto ai giganti dell'offerta mondiale, lo dico con tranquillità. Cioè, o vi strutturate, è vero che c'è anche Federalberghi, quindi la parte di Confcommercio, o vi strutturate con un'alleanza forte, mettendo assieme a valor comune, soprattutto per gli alberghi a gestione familiare, e date, o se no, comunque che si chiami Expedia o Booking.com, temo che quando tu ragioni con grandi numeri, come fanno i soggetti esteri, e ti trovi di fronte migliaia di piccolissimi alberghi a conduzione familiare, il coltello della parte del manico ce l'avranno sempre gli altri. Grazie comunque al presidente della Società Italiana Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci. Cos'è Uber? È un servizio che permette di prenotare un'auto con conducente attraverso un telefonino, uno smartphone, utilizzando un'app, un'applicazione che si scarica gratuitamente. Localizza dove sei e il pagamento avviene con carta di credito. È partito 4 anni fa a San Francisco, è presente in 80 città al mondo, in Italia, Milano e Roma, e ha superato il miliardo di dollari di incassi. Sta addirittura pensando la Uber di quotarsi a Wall Street. Tra gli investitori ultimi arrivati c'è anche Google, ha appena ricevuto comunque Uber capitali freschi per 307 milioni di euro. Il pagamento, ripeto, avviene con la carta di credito. La prenotazione si fa con un click e viene calcolato anche il tempo di attesa previsto. I prezzi sono di circa il 20% superiori a quelli dei taxi. Ora chiedo a chi rappresenta una parte del mondo dei taxi, quindi il responsabile di Unica, Unione Italiana Conducenti Auto Pubbliche, Nicola Di Giacobbe. Buonasera, Taxi Fit CGL. Ma perché se costa il 20% in più io dovrei prendere Uber? Cioè, che cosa temete di concorrenza da Uber? Ma il problema non è che cosa teniamo di concorrenza da Uber, che non è l'ultimo né il primo in questo campo, e qui non c'è un problema di concorrenza, qui c'è un problema che Uber, l'avete detto prima, 1 miliardo di utili, 307 milioni di euro di cose, quindi i prezzi sono superiori al 20%, quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un intermediatore di manodopera che entrando in un mercato cercando di deregolamentarlo sta prendendo la parte ricca di questo mercato, cioè non va certo a proporsi nelle zone popolari o le zone dove il servizio pubblico offre una opportunità di movimento, ma si va soltanto a posizionare in quelle zone, vedi qualche albergo, vedi gli aeroporti e quant'altro, per prendere quelle corse più remunerative. E questo che cosa comporta? Che un taxi, che è una tariffa amministrata con una organizzazione del servizio stata dai comuni, non può certamente reggere questo tipo di concorrenza. Uber a chi si rivolge? A tutti coloro che hanno una patente, una macchina e possono offrire un servizio. La domanda è: questi soggetti sono abilitati per portare terze persone? Queste macchine sono assicurate per questo servizio pubblico non di linea? Queste macchine, questi servizi, questi operatori pagano le tasse pari ai tassisti e ai noleggiatori? Quindi il nostro problema è che, attenzione, noi non abbiamo, i tassisti non hanno paura della concorrenza di un soggetto che si mette sul piano di fare un servizio migliore, di qualità e quant'altro. Questo già c'è, c'è il noleggio con conducente, con altre modalità di esercizio. Beh, però qui si scarica dal telefonino, ti dice quando arriva, la paghi con carta di credito, è un po' diverso. Ma non è vero, non è vero, non è assolutamente vero questo. Questa è la parte, diciamo così, più... folcloristica. Quello che ti dice è esattamente quello che ti dice un taxi quando lo prenoti, e se alla prenotazione gli chiedi dove devi andare e quanto è il percorso e quanto è la cosa, puoi benissimo fare un calcolo di questo genere oggi con gli strumenti. Senta Di Giacobbe, siccome mi interessa molto il tema, perché prima parlavamo, sono due casi diversissimi, gli albergatori contro Expedia e Booking.com per evitare le clausole di concorrenza, e il caso vostro. L'unico fil rouge, se vogliamo, è la tecnologia, ma è un fil rouge molto molto lato. Se lei è disponibile, io adesso ho finito il tempo della trasmissione, oggi abbiamo avuto vari temi, la rivoglio in trasmissione domani, a qualunque ora, dalle 17:30, perché io non ho capito perché io dovrei prendere un servizio della Uber al posto di un taxi. Costa il 20% in più, il servizio è uguale a quello che mi date voi, dov'è il problema? Lo prenderà sì qualcuno che gli piace più la macchina, non lo so, ma è come il noleggio con conducente. Veramente non ho capito che cosa temiate, però siccome voglio darle tempo per spiegarlo, le do appuntamento a domani o alle 17:15 o alle 17:30:45 o alle 18:15. Grazie intanto al responsabile della Taxi Fit CGL Nicola Di Giacobbe, che riavremo domani in trasmissione. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi.